Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri è emerso come la rete elettrica, in particolare la rete in alta tensione su cui viaggiano i grandi flussi di energia, sia un elemento decisivo per lo sviluppo delle rinnovabili, che sono fonti di energia molto variabili, poco programmabili. Più in generale, la struttura della rete elettrica impatta sull'efficienza generale del sistema nella misura in cui riesce più o meno a far, per così dire, girare l'energia, cioè a sfruttare al meglio il mix di fonti disponibili sul territorio, prendendo l'energia dove costa meno e distribuendola, in gergo si parla di dispacciamento, a chi ne ha bisogno. Il dato che poi è emerso ieri e da cui partiremo per la discussione di questa sera è che in alcuni punti la rete risulta congestionata, cioè impedisce il pieno sfruttamento, per esempio, di fonti rinnovabili che sono già installate e connesse. Marco Pigni, ieri direttore di APER, quindi dell'Associazione Produttori di Energie Rinnovabili, ci ha fatto un esempio, quello della linea che connette la Puglia con la Campania, dove insiste circa un gigawatt di potenza eolica. Ebbene, lì l'anno scorso un 10% dell'energia complessivamente prodotta da queste pale eoliche non è stato possibile immetterla in rete. Il gestore della rete in alta tensione in Italia è Terna. In linea con noi c'è l'ingegner Gianni Armani, direttore delle operation di Terna Italia, e parliamo con lui di tutto questo. Buonasera Armani. Buonasera. Dunque, io la domanda che le giro per certi versi è questa: quindi è vero che esistono delle strozzature nella rete italiana che rendono difficile far girare l'energia da una parte all'altra? Nello sviluppo in Italia, diciamo, il rinnovabile ha incontrato, diciamo, un caso totalmente italiano, che è la mancata coordinamento tra l'installazione di nuovi impianti rinnovabili e la connessione alla rete. Un po' come avviene per le nostre città, i nostri insediamenti urbani, anche per la rete sono stati autorizzati impianti senza prevedere, diciamo, le infrastrutture di allaccio, come per le fognature o le strade, che potessero consentire di portare sulla rete tutta l'energia complessivamente. Oggi invece abbiamo strumenti autorizzativi che consentono di coordinare meglio, si parla dell'autorizzazione unica, e di realizzare in contemporanea gli impianti di produzione con gli impianti minimi necessari per connetterli opportunamente alla rete. Tant'è vero che entro quest'anno abbiamo già in corso i cantieri che consentiranno di risolvere queste congestioni che si sono generate. Senta, mi pare di capire che uno degli elementi di contesa fra Terna in questo caso e almeno alcuni produttori di rinnovabili sia su chi deve in prima istanza, per così dire, realizzare questa connessione alla rete. Provi a spiegare a noi, come dire, cittadini non esperti di questi temi, in che cosa consiste questo problema e perché è così importante. Allora, chiaramente l'autorizzazione è un tema complesso e, diciamo, in generale qualunque infrastruttura in Italia è difficile per la difficoltà e le pastoie burocratiche del nostro sistema. Anche per quindi la sovrapposizione di molti enti che devono tutti, come dire, dare il via libera, se ho capito bene. Nessuno di questi che ha tempi definiti per darlo. Quanti sono? Ma, per le nostre opere arrivano fino a 100 soggetti istituzionali che debbano dare il parere, oltre ovviamente a qualunque privato che non ha, diciamo, un parere vincolante, ma può esporre la propria opinione negli iter autorizzativi. Quindi meno autorizzazione, più facile ottenere la realizzazione di un impianto, però per poter produrre bisogna avere tutte le infrastrutture messe in piedi. Noi oggi abbiamo una situazione in cui il numero di richieste di connessione alla rete supera di gran lunga il massimo consumo italiano possibile, quindi abbiamo oltre 100.000 megawatt di richieste di connessione alla rete. Però a fronte del 55.000 megawatt di consumo di picco nel giorno, massimo consumo, sì, certo, in Italia si consuma è il questa quantità, e voi avete richieste per nuovi impianti per un totale di 100.000 megawatt? Sì, e questo ovviamente pone grandissimi problemi di programmazione. Sappiamo benissimo che gran parte di questo, ma stiamo parlando del 90% di queste richieste, sicuramente sono richieste finte che non verranno mai realizzate, però intasano la burocrazia. Non sappiamo quali. Diciamo, abbiamo moltissimi di questi cowboy dell'autorizzazione che non hanno nessun interesse a realizzare impianti che poi produrranno effettivamente, ma che diciamo sono interessati soltanto al business della rivendita dell'autorizzazione. Senta, sì. Abbiamo parlato di problemi, magari ecco, cerchiamo di capire quale sarà il ruolo futuro delle reti in alta tensione. Si parla per esempio in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo, di smart grid, cioè di reti in alta tensione altamente evolute, molto intelligenti, che hanno questa capacità appunto di trasferire fulmineamente energia da una parte all'altra. Voi sì. Ci state lavorando su un progetto di questo genere che per ora, chiariamolo, non esiste da nessuna parte del mondo? Sì, noi stiamo investendo moltissimo questo tipo di gestione della rete. La nostra rete è già, per molti versi, già smart. Quello che stiamo facendo è una gestione ancora più spinta nel tempo reale. Che cosa significa? La rete deve essere in grado di reagire sulla base delle previsioni e sulla base degli eventi che al millisecondo si creano, in modo più possibile automatico per poter rispondere e riveicolare l'energia verso chi la deve consumare. Va bene, grazie mille Armani, buon lavoro. Grazie, arrivederci a lei. Bene, Mr. Kilowatt torna lunedì, vedremo come è possibile risparmiare energia e soprattutto ridurre le perdite in un acquedotto senza rattoppare neanche un buco. Per stasera è tutto, vi invitiamo come sempre a scriverci a mrkilowatt@radio24.it. Buona serata e buona continuazione.